我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 在这里，乐器展现出最美的音色。在这里，音乐家挥洒他们的激情。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天8点20点播出，魅力演奏厅。 欢迎来到魅力演奏厅，我是古月。今天首先为你带来的是 在维也纳皇家宫殿美泉宫举行的仲夏夜音乐会，钢琴家、指挥家巴伦博伊姆和维也纳爱乐在2009年新年音乐会后再度携手演奏，曲目有莫扎特的 G 大调弦乐小夜曲、法雅的西班牙花园之夜、穆索尔斯基的荒山之夜、小约翰施特劳斯的1001夜圆舞曲、约瑟夫施特劳斯的飞翔波尔卡、莫尔斯的 Tango、约翰施特劳斯的维也纳家族圆舞曲。 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 接下来带出的是迪丽拜尔北京独唱音乐会的现场录音，曲目有弗列的《祈祷》、舒曼的《月夜》、周恩来词、金香曲的《雨中阑珊》、云南民歌《绣荷包》、新疆维吾尔族歌曲《一杯美酒》、田歌作曲的《草原之夜》。 Oh, 浪漫，还等哪一个？不等情浪漫，还等哪一个？

mi lascio reggere, mi lascio reggere, mi fo guidar, mi fo guidar. Ma se mi toccano dove il mio debole, sarò una vipera, sarò. I cento troppoli prima di cedere, farò gioco, farò gioco. Primo di cedere, farò giocar, farò giocar, dicendo trappole, primo di cedere, i cento trappole, farò, farò giocar, io sono dolce. Mi lascio leggere, mi fu guidare. Ma se mi toccano dove il mio debole va, sarò come però sarò. E cento trappole prima di cedere, farò gioco. Oh! 快乐假期现在出发吧。